Prima cosa si apprese la capitolazione del generale Durando, che consegnava all'Austria le chiavi del Veneto. Un uomo che occorre compiangere, anche se non si vorrebbe biasimare, il generale Zucchi aggiunse dal canto suo un nuovo rigo alla lista già troppo lunga delle sue capitolazioni. Già sul finire di aprile il generale Zucchi infatti era stato sul punto di abbandonare furtivamente la fortezza di Palmanova, allora minacciata dagli austriaci, per recarsi, protetto da un travestimento, al quartier generale di Carlo Alberto. Fu la moglie del più grande attore tragico di cui oggi si onori la scena italiana, la signora Modena, a indurre il generale a rinunciare a questo piano avventuroso. L'invasione austriaca del Veneto, dopo la capitolazione di Durando, parve finalmente al generale Zucchi un'occasione favorevole per dare esecuzione al suo progetto di ritirata, a cui si erano associati gli artiglieri piemontesi che erano ai suoi ordini. I volontari veneziani che facevano parte del corpo di Zucchi dovettero in quell'occasione assoggettarsi, non senza rammarico, alle decisioni del generale. Inoltre Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo caddero l'una dopo l'altra in mano agli austriaci. Alla notizia di questi disastri, troppi e così imprevisti, Venezia per un attimo sgomenta ritenne di dover rinviare la convocazione dell'Assemblea nazionale già fissata al 18 giugno. Infatti la resa di Vicenza era venuta l'11, quella di Padova il 14. Il momento in cui questi rovesci si susseguivano non era certo favorevole alla riunione di un'assemblea deliberante. Si rinviò così l'inizio dei suoi lavori al 3 luglio. Quel giorno 133 deputati di Venezia e dei territori non ancora occupati dal nemico si recarono al Palazzo Ducale. Il problema che dovevano discutere era duplice e così formulato. Ci si doveva pronunciare subito sulla sorte di Venezia o si doveva attendere la fine della guerra? Ci si doveva dare al Piemonte o no? La discussione non occupò più che 3 o 4 sedute. I deputati veneziani, bisogna riconoscerlo, dimostrarono un tatto politico di cui le assemblee nazionali degli altri stati d'Italia raramente avevano dato esempio. Non fecero sfoggio di retorica e non parvero preoccupati di altro che di portare una uguale luce su tutti i punti in discussione. Tommaseo fu il solo a pronunciarsi contro l'annessione al Piemonte. Egli deprecò questa misura tardiva, giudicandola lesiva per la fierezza nazionale e inutile. Quanto a Manin, si mostrò veramente degno del posto che la fiducia del popolo gli aveva assegnato. Venezia poté ammirare in lui più che l'oratore, più che lo statista, poté riconoscere il cittadino tutto votato alla patria e in ansia per il suo avvenire. Manin resse quasi da solo l'intero peso della discussione, la quale non fu, per così dire, se non un lungo dialogo tra il Presidente del Consiglio e l'Assemblea. Le opinioni repubblicane del capo del governo veneziano erano notorie e Manin non soltanto non le nascondeva, ma se ne faceva un vanto. Quelle opinioni gli impedivano di entrare in un'amministrazione monarchica e tuttavia egli giungeva a consigliare, a supplicare Venezia di rinunciare alla Repubblica per unirsi al regno dell'Alta Italia. A quelli che volevano mettere restrizioni, condizioni, a quelli che chiedevano garanzie e promesse, rispondeva con un atto di unione pura e semplice, per presentare meno inconvenienti, meno pericoli di una adesione limitata, la quale, per poco che fosse incompleta, avrebbe potuto rivolgersi contro la libertà che era destinata a salvaguardare. L'opinione di Manin prevalse per entrambi i problemi e l'Assemblea, con la maggioranza, decise che doveva essere attuata immediatamente l'unione pura e semplice al Piemonte, alle condizioni stesse stipulate dai Lombardi. Ci si occupò quindi della formazione del governo provvisorio che doveva amministrare gli affari in attesa dell'arrivo dei commissari piemontesi. Ancora una volta una lotta commovente fu ingaggiata tra Manin e l'Assemblea, la quale non voleva altro governo che il suo. Manin dovette salire più volte sul podio per opporsi al volere dei suoi colleghi. Un deputato chiese che si prevedesse il caso che Venezia fosse sacrificata dal Piemonte in una specie di nuovo trattato di Campo Formio e che il presidente si impegnasse a riprendere il suo posto se simile occorrenza si fosse verificata. È inutile rispose Manin, prevedere simili eventualità. È superfluo che io assuma impegni di questo genere. C'è tra voi qualcuno che dubiti della mia dedizione? Queste ultime parole suscitarono nell'assemblea una tempesta di applausi. Non rattristiamo questo giorno e questa deliberazione con discorsi di cattivo augurio. Faremo tutti e sempre il nostro dovere. E questo dovere ci impone oggi di unirci francamente e semplicemente al Piemonte. Nominate un governo che non sia l'espressione di un sentimento di diffidenza verso lo Stato di cui siete per diventare parte. Queste parole trascinarono l'assemblea che scelse i membri del nuovo governo nella frazione meno repubblicana del vecchio gabinetto. L'avvocato Castelli fu eletto presidente, si aggiunsero come ministri Paleo Capa, Camerata, Paolucci e Cavedalis. Prima di congedarsi dall'assemblea e dal loro paese, i ministri dimissionari vollero render conto della loro amministrazione e i discorsi che pronunciarono in quell'occasione restano come singolari documenti della storia contemporanea di Venezia. Manin raccontò i passi che il governo veneto aveva tentato, specialmente dopo il congiungimento dei due corpi d'armata di Radeschi e di Nugent presso parecchi stati italiani, per spingerli a invocare, di comune intesa, l'intervento armato della Francia. A quella nota del governo veneziano, il re del Piemonte non aveva dato risposta. Toscana e stati pontifici avevano tenuto un linguaggio amichevole, ma non si erano pronunciati con nettezza sulla questione. Insomma, il risultato di quel tentativo aveva fatto risaltare la mancanza di accordo tra Venezia e il resto dell'Italia. Il rapporto del ministro delle Finanze non fu molto più confortante di quello del ministro degli Affari Esteri. La conclusione era che le entrate della Repubblica di Venezia, grazie ai provvedimenti recentemente adottati, non superavano i 190.000 franchi al mese. Le spese indispensabili non potevano essere valutate in meno di 2.220.000 franchi al mese. Ci si era rivolti a tutte le città d'Italia, scongiurandole di non lasciar perire Venezia per mancanza di denaro, ma fino a quel momento non era stato offerto nessun soccorso. L'assemblea si era riunita, come già si è detto, nei primi giorni di luglio. Alcuni agenti segreti del Piemonte si erano dati da fare per preparare Venezia al grave cambiamento che stava per attuarsi. Mentre l'assemblea deliberava, si sentì gridare «Viva il Piemonte, abbasso la Repubblica!». Quando il risultato della discussione fu conosciuto, Venezia non lasciò trasparire nessuna emozione. La croce di Casa Savoia sostituì su tutti gli edifici la bandiera di San Marco in un grigio silenzio. Il grido «Viva il Piemonte!» aveva smesso di risuonare, non appena le dimostrazioni monarchiche avevano raggiunto il loro scopo. Venezia si era unita al Piemonte con diffidenza. Va detto subito, questa diffidenza era ingiusta, poteva condurre a un abisso. I piemontesi non erano i compatrioti, i fratelli dei veneziani? Sì, senza dubbio, ma il popolo non compie in un giorno la sua educazione. Pregiudizi spiacevoli lo separavano dal Piemonte. Per superarli sarebbe stato necessario rivolgersi con franchezza alla sua intelligenza, al suo patriottismo, anziché porlo in una crudele alternativa nella quale la necessità gli toglieva ogni libertà di scelta. La diffidenza di Venezia, peraltro, andava imputata più che a errore dei suoi abitanti, al comportamento inopportuno degli amici di Casa Savoia. 3. Due fatti che sembravano contraddirsi seguirono l'adesione di Venezia al Regno dell'Italia del Nord. Venezia ricevette da Carlo Alberto 2.000 uomini e 800.000 franchi, ma nel contempo fu tolto il blocco a Trieste. La popolazione di Venezia apprese con rammarico la fine di quel blocco che alla lunga avrebbe potuto spingere gli abitanti di Trieste a ribellarsi all'Austria. Il Piemonte, peraltro, non aveva niente da rimproverarsi in questa occasione. L'allontanamento della flotta sarda si spiegava con il ritiro della squadra navale napoletana, la quale avrebbe dovuto, unitamente a quella sarda, bloccare Trieste. La poca energia con cui le operazioni di blocco erano state condotte all'inizio non poteva che meritare un severo biasimo. In ogni modo, Venezia accolse con profondo scontento la dichiarazione dell'ammiraglio Albini che ci si sarebbe limitati da allora in poi a impedire il blocco di Venezia e la cattura di navi appartenenti alla Repubblica. I commissari piemontesi Colli e Cibrario giunsero a Venezia soltanto verso la fine di luglio e convinsero il presidente Castelli a restare al potere al loro fianco. Si doveva affrontare una nuova crisi. Non occorre che rammenti qui gli avvenimenti di cui fu teatro poco dopo la Lombardia. Il contraccolpo della ritirata dell'esercito piemontese al di là del Ticino non tardò a farsi sentire a Venezia. Una lettera del maresciallo Velden informò gli abitanti che l'esercito sardo era stato completamente distrutto e che Venezia aveva l'ultima occasione per guadagnare il suo perdono, invocando la clemenza dell'imperatore Ferdinando. Il governo veneziano ringraziò il maresciallo delle sue intenzioni benevole, come pure delle informazioni date, che erano certo esatte, aggiunse che non si riteneva competente a prendere l'iniziativa di una decisione su un problema che riguardava tutta l'Italia. La prima lettera del maresciallo Velden fu presto seguita da una seconda missiva, datata 9 agosto, con la quale egli annunciava a Venezia che era stato concluso un armistizio tra il maresciallo Radeschi e il re di Sardegna. Si sa che con questo armistizio, noto con il nome di armistizio Salasco, ogni territorio compreso tra il Po, il Ticino e le Alpi veniva posto di nuovo sotto la dominazione degli austriaci. Il generale fece capire che la cessione di Venezia era stipulata nell'armistizio e insisteva presso l'autorità della città affinché fossero immediatamente sospese le ostilità tra le truppe al soldo di Venezia e le truppe austriache. La risposta del governo veneziano fu breve e dignitosa. Si respingevano ogni proposta di accordo e ogni ulteriore comunicazione. Dopo questa risposta, occorreva prendere una decisione nei confronti del Piemonte. L'armistizio concluso con il maresciallo Radeschi troncava i legami che per un momento erano esistiti tra quella potenza e Venezia. Castelli si affrettò a recarsi da Manin per chiedergli di accompagnarlo dai commissari piemontesi. Manin lo seguì immediatamente. Per strada, la folla sconvolta, ebbra di collera e di dolore, lo ferma e gli grida: «Vogliamo sapere che cosa sia la pretesa di decidere per noi. Non vogliamo essere consegnati agli austriaci, basta con gli austriaci, piuttosto la morte!» Via via che questo grido veniva ripetuto, l'eccitazione popolare cresceva e si faceva più minacciosa. Il popolo voleva finirla subito con ogni autorità piemontese, dato che il Piemonte aveva firmato un trattato con l'Austria e quindi Venezia non avrebbe potuto tutelare la propria indipendenza se non tornando a essere arbitra del suo destino. A gran fatica Manin ottenne che lo lasciassero proseguire. Giunto alla presenza dei commissari piemontesi, li trovò quasi altrettanto agitati. Gli stessi timori dominavano l'animo di tutti. Il popolo, frattanto, si era accalcato davanti alla casa dei commissari e chiedeva che gli fosse reso noto il testo completo degli ultimi dispacci. Venne data lettura di un articolo di un giornale di Genova, Il Pensiero Italiano, che illustrava l'armistizio e le sue condizioni. Il giornale però non menzionava né la squadra navale né la guarnigione piemontese di Venezia. Furono chieste spiegazioni su questo punto. I commissari risposero, le lacrime agli occhi e con voce commossa, che essi stessi ignoravano assolutamente che cosa era stato deciso a proposito di Venezia. Questa affermazione non era tale da calmare il popolo. I commissari, vedendo che il tumulto cresceva, scongiurarono Manin di associarsi a loro nel potere. Manin rispose di non poter accettare un'autorità che aveva la sua fonte nella stessa persona da cui probabilmente era stata firmata la resa di Venezia. Infine, dopo una lunga discussione, interrotta di continuo dalle grida della folla che si addensava davanti al palazzo, i commissari convennero di conservare i loro poteri sino all'arrivo di nuovi ordini del re, ma di non farne uso e di non intervenire più nell'amministrazione della città. Per quanto fosse strano questo compromesso, esso fu adottato perché sedava i timori popolari. ma la città restava di fatto senza governo. Ancora una volta fu Manina a tirar fuori Venezia da una situazione drammatica. Intendiamo, disse, convocare immediatamente l'assemblea che ha decretato non molto più di un mese fa la fusione con il Piemonte e chiederle di nominare un governo provvisorio, ma da adesso a quel momento Venezia non può rimanere abbandonata al disordine. Nessuno avrebbe la responsabilità della difesa della città mentre il nemico è alle porte. Bisogna procurare denaro, allacciare rapporti diplomatici. Aggiungeremo l'anarchia alle nostre sventure? La situazione esige la dedizione di un uomo retto che si prenda tutto sulle spalle sino alla riunione dell'Assemblea nazionale. Sarò io quell'uomo. Queste parole rivolte al popolo dall'alto del balcone furono pronunciate con un tono di franchezza che non consentiva perplessità. La calma si ristabilì subito e la folla si disperse, piena di fiducia nell'energico cittadino che si faceva carico ancora una volta dei destini della propria terra. Non occorrevano più di 2 o 3 giorni per riunire l'assemblea, i cui membri erano quasi tutti presenti a Venezia. Il 13 agosto Manin poté esporre davanti ai rappresentanti del paese i motivi che l'avevano deciso a prendere in mano il potere. L'Alta Italia è in questo momento in una situazione delle più tristi ed eccezionali, disse Manin. Nelle tenebre in cui ci troviamo, dobbiamo contare soltanto su noi stessi per la nostra salvezza. Se le sventure di Casa Savoia sono più grandi di quello che sappiamo, se essa si vede costretta a compiere dolorosi sacrifici, ebbene, ci sarà grata se continueremo a difenderci da soli. Serviamoci a questo principe che non ci cederebbe al nemico senza amari rimpianti. Più tardi, quando il sole del successo brillerà di nuovo sul regno dell'Alta Italia, Venezia convocherà ancora una volta in assemblea i deputati e tanto meglio potrà disporre della sua sovranità, quanto meglio l'avrà difesa contro i barbari. A noi occorre la guerra. Aspira alla pace in questo momento la parte occidentale dell'Italia del Nord. Dobbiamo dunque separarci per ora, per non nuocerci reciprocamente con le nostre opposte tendenze. Il discorso di Manin ottenne l'approvazione dell'Assemblea, la quale nominò un governo provvisorio composto di 3 membri. Ne era presidente Manin, poi Graziani e Cavedalis completavano il triumvirato. Il nuovo governo affrontò subito il problema che l'armistizio tra Austria e Piemonte facevano nascere. Interpellato dal capo della Marina veneziana sulle istruzioni da lui ricevute per il Veneto, l'ammiraglio piemontese Albini dichiarò sul suo onore che non gli erano giunti nuovi ordini a proposito della flotta. Anche gli ufficiali al comando dei 2.000 soldati di terra piemontesi affermarono che non era pervenuta loro nessuna nuova istruzione. Venezia dunque non era stata compresa nell'armistizio. Non c'erano più problemi in sospeso tra Venezia e il governo piemontese. Quest'ultimo si era anche risarcito degli 800.000 franchi prestati a Venezia con il sequestro operato a Genova di un convoglio di fucili proveniente da Parigi e destinato al Veneto. È giusto riconoscere che il sequestro disposto su questi fucili fu tolto in capo a un mese. Quasi subito dopo la costituzione del nuovo governo veneziano, Tommaseo partiva per Parigi, incaricato dalla Repubblica di implorare il soccorso della Francia. Venezia prendeva di fronte a se stessa, alla patria italiana e al nemico l'impegno di resistere sino alla fine. Sono trascorsi quasi 4 mesi da quando Venezia, la sola nemica che l'Austria non abbia compreso nell'armistizio, è stata abbandonata a se stessa. In questi 4 mesi è svanita l'immediata speranza di un intervento francese. La flotta e la guarnigione sarde sono state ritirate secondo le condizioni dell'armistizio. Il blocco ha chiuso l'infelice e forte città in uno stretto cerchio. La squadra navale francese è venuta a rompere questa catena, poi è tornata indietro e la flotta austriaca è riapparsa. Infine la flotta sarda, sempre comandata dall'ammiraglio Albini, è apparsa una seconda volta davanti a Venezia e le navi austriache sono rientrate a Trieste. I volontari di tutte le parti d'Italia, stanchi e indignati per la sospensione del combattimento, si sono dati appuntamento nelle lagune veneziane. Ogni giorno vede l'arrivo di nuovi difensori attorno a quest'ultimo baluardo, della nostra indipendenza. Dopo l'occupazione della terraferma da parte degli austriaci, dopo che le loro navi hanno preso a incrociare nell'Adriatico, ogni traffico è cessato a Venezia e non le è venuto da fuori neppure un fiorino. Le spese ordinarie mensili che il ministro delle finanze valutava nel luglio scorso in 2.220.000 franchi sono aumentate poi per l'arrivo di nuove colonne di volontari. Venezia ha cominciato a rivolgersi a tutte le città italiane e anche a quelle straniere per ottenere un prestito. Dappertutto ha aperto sottoscrizioni mensili. Ci pesa troppo, perché teniamo all'onore italiano dire il risultato di questi tentativi. Si è parlato in seguito di dare impegno a qualcuno dei magnifici oggetti d'arte che abbondano a Venezia, ma gli scrupoli dell'amministrazione non le hanno mai permesso di transigere su questo punto. Questi tesori non appartengono soltanto alla generazione attuale, è stato detto. I nostri antenati ci hanno lasciato in questi capolavori qualcosa del loro genio e della loro anima, qualcosa che noi dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Sapremo difendere e salvare la patria senza spogliarla. Ci si domanda con sgomento come potrà durare una situazione simile. Possono spiegarla soltanto una dedizione, una pazienza a tutta prova. Il ristagno assoluto di ogni commercio, di ogni industria, di ogni lavoro ha costretto lo Stato a prendere misure estreme per soccorrere le classi povere. I ricchi capitalisti veneziani si sono affrettati a venirgli in aiuto. Sono stati emessi dal governo buoni per l'ammontare di 4 milioni e 20 dei maggiori proprietari veneziani si sono impegnati a rimborsare i detentori di questi buoni. La parola di questi generosi cittadini ispira tale fiducia che la carta moneta di Venezia, una città attaccata in questo momento per mare e per terra, è stata accettata in tutta l'Italia con cambio alla pari. Secondo un calcolo fatto recentemente, i cittadini di Venezia sino a questo momento avrebbero dato alla Repubblica o assicurato avalli in suo favore per una somma complessiva di 30 milioni. Questo denaro è stato esportato via mare in cambio di viveri di cui la città non può fare a meno e che è assolutamente costretta a procurarsi dal di fuori. In mezzo a tante miserie, privato di ogni risorsa, minacciato di morte o di schiavitù, il mite popolo veneziano dispiega con grande fermezza, che ricorda quella delle antiche popolazioni del Mezzogiorno d'Italia o della Grecia. Dall'alto delle sue mura può vedere le uniformi bianche delle truppe austriache campeggiare nei verdi prati di Mestre e di Fusina e il rombo del cannone nemico lo insegue fino nel sonno. Eppure mai, da quando questo terribile stato di cose dura senza interruzione, mai il coraggio, la costanza, l'umore gaio e sereno di questo popolo sono venuti meno. L'emissione di carta moneta, provvedimento così deprecato di solito dai capitalisti e grave per il minuto come per il grosso commercio, non ha suscitato la minima protesta a Venezia. Ogni città assediata è necessariamente soggetta a prove crudeli, ma ci sono privazioni che soltanto a Venezia è stato riservato di conoscere. Chi abita a Parigi può davvero comprendere bene che cosa significhi il blocco di una città edificata interamente nei flutti del mare, una città in cui le strade sono canali, stagni, i giardini, in cui tutto arriva dall'esterno, dalla più semplice verdura all'acqua potabile. Per prolungare la resistenza in condizioni simili ci vogliono uomini dotati della calma e della pazienza che da sempre hanno contraddistinto i veneziani. Non si sentono lagnanze da questa gente e si possono vedere i più poveri discorrere gaiamente sui gradini delle scalinate e delle chiese, sulle banchine o nelle gondole. I ricchi soffrono più di noi, si ripetono, o meglio, non ci sono più ricchi. Hanno ragione. La famiglia Papadopoli, i Rothschild veneziani, i cui bei palazzi occupano da soli tutto un lato di uno dei principali canali di Venezia, ha rotto ora con le abitudini fastose che ricordavano la sua origine orientale. All'ora dei pasti, nei vasti saloni spogliati delle ricche tappezzerie e dei mobili splendidi che li ornavano, essa siede a una tavola modestamente apparecchiata con un servizio di terracotta. Non c'è più veneziana che possegga un braccialetto, una catenina d'oro, un gioiello, uno scialle di cashmere. Il vestito della dama più altolocata è lo stesso di quello della popolana. Mi rincresce, diceva qualche giorno fa una dama veneziana, di non avere più niente perché non ho più niente da dare. Nessuno a Venezia parla di arrendersi e di abbandonare la partita. Il vecchio generale Pepe, alla testa di 1.500 giovani volontari minati dalla febbre, ha appena fatto una sortita contro le truppe austriache attestate nei forti di Mestre e di Fusina. È il 27 ottobre 1848. Ha catturato i loro cannoni e le ha respinte fino a Padova. Il popolo, che aveva sentito il cannoneggiamento, si è raccolto in piazza San Marco e là un rappresentante del governo, apparso alla finestra del palazzo, gli ha dato la notizia della vittoria, terminando il suo discorso con queste parole che l'ingenua devozione degli ascoltatori ha subito compreso. La Vergine protettrice di Venezia è esposta in San Marco. In un lampo la piazza era deserta e la chiesa stracolma. In scene simili si ravvisa quella poetica esaltazione che in mezzo alle più crudeli prove non abbandona il popolo italiano. Abbiamo detto dei mezzi di difesa che Venezia attinge nel carattere stesso dei suoi abitanti. Rimane da parlare dei mezzi materiali che le sono offerti dalla sua posizione in mezzo alle acque e da illustrare il modo in cui sa trarne profitto. Il punto della città più vicino alla terraferma ne dista 3.400 metri. Tale è infatti la lunghezza del ponte ferroviario che unisce Venezia alla costa. La parte della riva che fronteggia la città è munita, su una linea di 60 miglia italiane, di 36 fortini, tutti in perfetto stato di conservazione, ben custoditi e difesi da 1.400 pezzi di artiglieria. La guardia delle coste è affidata a una piccola guarnigione, il cui compito è tra i più penosi. Un centinaio di imbarcazioni da guerra, dette pinacce, ognuna con 5 soldati, costeggia incessantemente la riva. Su questi navigli, leggeri, esposti giorno e notte alle intemperie e alle palle di cannone austriache, i valorosi hanno passato tutta l'estate del 1848. Dal lato del mare, il blocco di Venezia è in questo momento reso inattuabile dalla presenza di 6 navi francesi, 16 sarde e 13 veneziane. L'esercito di terra che difende Venezia è di circa 20.000 uomini. Quasi non vi figurano truppe regolari, bensì soltanto corpi di volontari siciliani, napoletani, toscani, romani, lombardi, trentini e veneziani. Ufficiali francesi comandano parecchie di queste legioni, il cui comportamento è ammirevole. Difficilmente vecchi soldati tollererebbero le privazioni che sopportano da 6 mesi questi uomini. Essi hanno rinunciato ad abitudini molli e pigre per vivere vestiti in qualche modo, nutriti in qualche modo, in forti bagnati da un'acqua stagnante, eppure in 6 mesi non è stata registrata nessuna diserzione. Venezia non si scoraggia. E all'inizio dell'inverno il suo consiglio municipale si è riunito per pensare ai mezzi per superare la stagione rigida. La proposta di ipotecare qualcuno dei capolavori della scuola veneta è stata avanzata di nuovo e di nuovo respinta. D'accordo con i maggiori proprietari, il consiglio ha deciso di aprire un nuovo prestito di 12 milioni e se ne è fatto garante. Carta moneta per questo importo sarà emessa successivamente. Il comune ne garantisce il rimborso con una sovrimposta sugli immobili. Si conta con questi 12 milioni di far fronte alle spese dell'inverno e di arrivare all'aprile. Si deve confidare che per allora la sottoscrizione mensile di un franco che è stata aperta in tutte le città e borgate italiane e in parecchie capitali europee avrà fruttato abbastanza da fornire un aiuto consistente alla Repubblica. L'Assemblea Nazionale Veneziana si è ultimamente riunita per procedere alla rielezione del potere esecutivo. Essa ha confermato le sue scelte precedenti. Non poteva far meglio perché Manin è l'amico fedele di Venezia, cui ha dato tutto ogni volta che c'è stato bisogno dei suoi servigi. C'è da auspicare, peraltro, che Manin maggiormente si sforzi di lottare contro i difetti spiacevoli che in lui si uniscono a brillanti qualità. Diffidi soprattutto di quel suo carattere imperioso, di quella tendenza a sdegnare la discussione che potrebbe trascinarlo a errori incresciosi. A Venezia, più che altrove forse, il potere ha tradizioni e suggestioni che alla lunga possono fuorviare anche l'animo meglio temprato. Non negli archivi del Consiglio dei Dieci, speriamo, Manin cercherà le sue ispirazioni politiche. Tra le procedure di una dittatura di altri tempi e i principi fecondi della libertà moderna, Manin non potrà a lungo evitare di scegliere. Quale che sia il destino riservato a Venezia, quali che siano stati gli errori del suo governo, nessuno contesterà oggi alla sfortunata città il merito di una costanza che rasenta l'eroismo. Non ignoriamo i rimproveri severi che si possono rivolgere in questo momento all'Italia. Dissimulare i suoi torti non serve a cancellarli. E sarebbe un ben povero patriottismo quello che spingesse oggi un italiano o un'italiana a non ammettere nessuna differenza per la gloria del suo paese tra la primavera e l'autunno del 1848. No, un patriottismo di questo genere non è il mio. Abbiamo commesso errori, a che negarlo, dato che le nostre sventure li attestano e ne costituiscono la prova più irrecusabile. Ma il comportamento di Venezia ci risarcisce di tante umiliazioni. La sua gloria è venuta a portare qualche conforto in mezzo a tante amarezze. Ce ne ricorderemo. L'Europa, l'Italia stessa sembrano aver dimenticato Venezia e sembrano non darsi più pensiero di questa città perduta nel mare. Si diceva che era impotente tanto a riconquistare quanto a conservare la sua indipendenza. Venezia dà oggi a queste ingiuste accuse una smentita solenne. L'Europa le ha ridato la sua simpatia e l'onore italiano trova in Venezia un ultimo baluardo. Giorno verrà, noi lo speriamo, in cui la riparazione sarà ancor più completa. Quel giorno l'Italia avrà riconquistato la sua indipendenza e Venezia sarà celebrata tra tutte le libere città italiane come quella che mai disperò della patria e mai esitò nei suoi sacrifici per la santa causa del nostro riscatto.